È stato il giorno della smobilitazione di Alitalia da Malpensa. L'ormai ex hub varesino ha visto svanire, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, ben il 72% dei voli della compagnia di bandiera, che da quasi 400 operativi è scesa a poco più di 100. Una sforbiciata drastica che ha riguardato molte rotte intercontinentali, soprattutto verso gli Stati Uniti e l'Asia, passate a Roma-Fiumicino, oltre a numerose destinazioni europee trasferite in parte a Linate. Anche le isole dei check-in Alitalia si sono dimezzate. Le altre compagnie, soprattutto Air One, hanno cominciato a riempire i vuoti negli slot. Emblematica la partenza in mattinata del primo Milano-Napoli targato AP. Il deserto di Malpensa, con 900 lavoratori messi in cassa integrazione a ore e a rotazione, contrastava nettamente con altre due notizie della giornata: l'inaugurazione della superstrada Malpensa-Boffalora, che potenzia i collegamenti viari con lo scalo varesino, e l'entrata in vigore dell'accordo Open Skies tra Unione Europea e Stati Uniti, che, liberalizzando il traffico aereo tra le due sponde dell'Atlantico, apre la competizione tra i vettori. Oggi intanto confronto decisivo tra sindacati ed Air France sul futuro della compagnia di bandiera. L'obiettivo è strappare ai francesi condizioni ancora migliori per evitare il rischio di commissariamento. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.